deserto, va, così sì, in ascolto mentre gioca al computer. E allora mandica tranquillo. Uno mi dico del pane esattista. Ah, non dico del pane esattista, è già bigliere. E caso non l'ha saleato caso? No, è caso no. Non fa caso, dai. Mi va bene su Mattesi. Già si mandica la. E oggi non si sente nessuno, così niente di particolare. Ancora in giostra sono. Ma stavo chiamando sul 5, ma neanche lì lo stesso, ma io sapevo che ti dichia. Non sei uscito niente oggi, no? Tutto il giorno a casa. Sono uscito stamattina, ma poi a casa sono entrato. Non è fatto niente di particolare. Ascolta, ma tu non c'avevi 240, venduto la bevi? Via. Sei rimasto senza, così ti hai tenuto solamente un baracchino, niente... Beh, né più né meno alla fine, solo una parata e boh. Si conferma. Fai questa scelta. Sì, non è una scelta. La posso usare perché purtroppo... Ah, ho fatto finanziario per quel motivo lì. Se ne vuoi soldi, capito? Sono come quella dei 40 comunque, non adesso, fino là, non lo compro. Quella dei 40, ma io lo compro, poi non lo prenderò. No. Mi dispiace. Rimane qua. Comunque, per quello che avevi non eri contento alla fine, non ti soddisfava. Se no sicuramente non l'avresti venduto. No, sì, sì, era uno signor parecchio. E infatti che l'ho venduto praticamente... Sono contentissimo, mi ha ringraziato, bello, bello, bello. Molto, molto bene. Ecco la, vuoi affrontare, dai. Senti qualcosa di più superiore, anche quello di avere una scelta lo stesso. Ma diciamo, non è abbandonato, dai, c'è sempre, sempre su quella linea lì, dai, già va bene ugualmente. Comunque, va bene anche con questo e non c'è nessun problema. Sì, confermo. Sì, sì, no, ho fatto un baracchino. Diciamo, macchio la guerra, non bene fate chiacchiere, fate ne accorgi bene quel segnale, non è che ce ne freghi più di tanto. Ah, questa rimane molto più limpida come modulazione, confronta a quella che avevi prima, rimaneva molto più prepotente, ma io preferisco questa, per il mio modo di ascoltare la verità. Bella, pulita, tranquilla, 9.5, sì, da parte mia, a voglia. Deve essere che sto pompando un po' perché non posso essere utilizzato, intanto bisogna farli girare. Ho collegato il 131. No, va bene, tutto bene. Se no, devo parlare. Guarda un po'. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fichi positivi ciò. Se no, è 15, fichi positivi. Quasi 20. Perfetto, ma non ho tanto quella allo smitter. Dovrebbe, aspetta. Sì, già è tarato, perfetto, dai, voglia. Fammi ancora andare qua mentre modulo. Faccio due indicatori che mi dica. Uno, adesso sto, vabbè, fissa così, senza modulare. 80 e modulati 120 quasi. E 1,1 di stazionario, voglia. Vai benissimo, guarda. Vai benissimo, ottimo, radio, segnale, nuovo, va bene, ottimo. Guarda che poi dove sei, guardati bene, bene, bene, bene. Ti posso dire che siamo di qua in... qua, qualcosa. Sto usando il 68, ma già sono contento. Ma è l'unica differenza che prende un po' di colpi, dai, quando c'è qualcuno in zona abbastanza più potente di me, o in vicinanza, dunque senti gli sblatteri, secondo il canale che c'è. La verità che senti tutti e 34 canali. Mi sarebbe piaciuto, se era possibile, fare qualche piccola modifica, non so, mettere qualche filtro per avere, sai, canali un pochettino più puliti, che non prendi i colpi. Poi con l'apparato sono contento, sono usato sempre il 68, no, sono contento, va bene. Nuovo nuovo, di mio fratello, quando ho acquistato, me l'ho utilizzato, là. Me l'ho preso io, sono sempre utilizzato quello, ho abbinato con le MV più 4, no, a me batte la fatta, voglia. Ma no, 68, come quello? Tu dici 68, il 48. certo numero di colpi, comunque se rimani qua non è nessuno, magari adesso, vicino all'interno tua a 20 a 30 per numero di colpi, comunque se per esempio il Claudio viene su 20, su 15, su 20 crepa a te. No, ma il problema è che lo sento sia dal canale 1 che al canale 34. Non è su un singolo canale, 3-4 canali, CC, tutti i canali. Invece con il Galaxy assolutamente no, non ho nessunissimo problema. Per quello volevo chiedere se esistevano qualche piccoli filtri, non so, qualche piccola modifica in modo da avere le caratteristiche del Galaxy. Molte volte qualche filtro interno in modo da modificarlo in quel senso lì, non avere splatter in tutti i canali, ecco, sono su 10, lì su 10 rimangono, se prendi su 12, su 13 non mi dia nessun problema, capito? Sì, ma infatti, non è un problema, è interessante sentirsi poi da mezzo, non è che si può fare nemmeno. Sai, allora io mi sento un po', c'è qualcuno dopo, ma perché che non è faccio? Dai, continuo a mangiare, muovevo un po' giorni di fa ancora. Vado, vediamo forse sul dolce adesso. Tranquillo, ti lascio mangiare, vai, giustamente anche ora. Mangia tranquillo, guarda, faccio un giro sul 5, sul 10, chiamo lì. Tra ogni 5 minuti, dai, vediamo se qualcuno entra. Vai, buon proseguimento. E appetito, giustamente, vai, ci sentiamo più tardi se coincide. Sempre sperando che entri qualcuno. Sì, e tu andiamo, c'è qualcuno per parlare di anche a dopo, sono qua, tranquillo, grazie. A dopo, anche buona cena, si devi mangiare. E siamo a 10, a dopo, ciao. Io ho già mangiato, più tardi allora.